9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. E ancora, al 47esimo giorno di ingovernabilità, teniamo come apertura il grido di dolore, se così vogliamo chiamarlo, del nostro Angelo, artigiano immagino, che ci ha chiamato dalla provincia di Bergamo qualche giorno fa, ormai penso un mesetto e passa, chiedo conferma a Carmelo Lauricella che è in regia, sì, siamo oltre il mese e ancora siamo là appunto, 47esimo giorno di ingovernabilità, il conto delle imprese che sono fallite, io vi ho detto 43 naturalmente è una media, il Sole 24 Ore in edicola ogni giorno sa essere molto più preciso perché riporta i dati del CERVED, anche se archiviati a martedì, quindi a due giorni prima. Prima, sono precisi, sono state 46 aziende che sono fallite, 4.330 dall'inizio dell'anno. Oggi tempo scaduto, che il tempo sia scaduto ce ne rendiamo conto tutti quanti ed è con questo slogan, anche con questo slogan che oggi la piccola industria di Confindustria riunisce il suo convegno biennale a Torino e insomma naturalmente si parlerà di una situazione che si fa via via più difficile e nella quale serpeggia un certo smarrimento naturalmente da parte tanto di imprenditori quanto di lavoratori, perché se è vero che alcune cose vanno avanti, è vero che c'è l'ordinaria amministrazione, gli affari correnti, ma probabilmente il paese non ha bisogno di affari correnti né di ordinaria amministrazione, ma di qualcosa di straordinario. Allora, il colpo di tosse che avete sentito è di Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore, in studio con noi. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. E quindi di questi temi parleremo. Saluto anche Paolo Pirani, segretario confederale della UIL, benvenuto. Buongiorno a voi. E poi parleremo con gli imprenditori. Giacomo Gellini, presidente dei giovani di Confindustria Toscana, qua in veste soprattutto appunto di imprenditore, per raccontarci come vanno le cose dalle sue parti. Gellini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. E però iniziamo da una storia, visto che parliamo di piccola impresa appunto. Qua siamo appunto nell'ambito proprio delle piccole. Saluto Laura Alberti, imprenditrice, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Iniziamo da lei quindi, Alberti. Ci dica un po', dimensione d'azienda, come vanno le cose, perché qua siamo nell'ambito del famoso paradosso, per cui un'azienda lavora, ma il problema è di liquidità e quindi non riesce a starci dentro. Allora partiamo dall'azienda, che cosa fate, che dimensione avete? Allora, la nostra azienda è una piccola azienda italiana, siamo nel settore della grafica e della stampa. Vantiamo il fatto di essere una piccola azienda che ha un ciclo produttivo direi quasi completo e che oggi ovviamente lotta con i suoi clienti e con i suoi fornitori. La grande difficoltà, pur avendo lavoro, è proprio la liquidità. Noi è un'azienda che comunque sorge dagli anni, fine anni 60, grazie a mio padre, e che in tutti questi anni ha garantito la tranquillità di molte famiglie. Da 25 che eravamo, oggi siamo in 8. Il lavoro è calato, ma c'è. Il problema è che nel 2011, quando l'azienda andava ancora bene, ha fatto un investimento, perché noi imprenditori crediamo nelle nostre aziende. Abbiamo fatto un investimento migliorando il nostro impianto tecnologico, investimento importante, dove l'imprenditore ovviamente ha dovuto garantire anche quei beni propri e quindi anche personalmente tutto quello che avevo io l'ho investito in questa azienda. È iniziata la crisi, abbiamo avuto problemi di grossi insoluti da parte di nostri anche migliori tempi clienti e all'improvviso anche le banche hanno iniziato a cambiare il loro comportamento nei nostri confronti, pur rimanendo nei nostri castelletti, quindi io ovviamente il mio fatturato è calato e le aziende oggi purtroppo non sono più viste come aziende, ma sono rappresentate dal rating. E il rating ci sta rovinando. Naturalmente, le banche a questo punto non fanno più credito. Perché? Perché ci sono degli insoluti dei vostri clienti, anche, sì. Anche devo dire, di piccole dimensioni, no? Perché l'azienda è piccola, insomma, è piccola anche come dimensioni di fatturato. Chiaro, tutto, insomma. Tutto è in rapporto, ovviamente. Abbiamo avuto degli insoluti, purtroppo, poi nel 2011, principalmente da un nostro grande cliente che tranquillamente ha messo in liquidazione l'attività, ha chiuso la sua attività in Italia, a noi ha lasciato un grosso buco e però ha riaperto in Romania e lui sta lavorando e tutti i fornitori che ha lasciato qua, scusate il termine, in braghe di tela, adesso stanno lottando. Chiaramente noi nel frattempo abbiamo altri clienti, abbiamo lavorato e stiamo lavorando, ma questi grossi insoluti mi hanno peggiorato il rating, tant'è che adesso con le banche è veramente difficile lavorare. Le presentazioni, noi lavoriamo con gli anticipi fatture, mentre una volta quando io presentavo le fatture per l'anticipo in banca mi veniva accettato velocemente, il giorno dopo già io lo trovavo sul mio conto corrente, quindi potevo operare tranquillamente, ora ci vorranno circa 5-6 giorni prima che la banca decida di accettare il nominativo che io sto presentando. Un caso esemplare. Allora, resti con noi. Nel frattempo ci scrive sulla nostra pagina Facebook Etna Agricoltura, quindi un profilo Facebook di un'azienda, che però è una persona reale, un imprenditore, che ci scrive: sono realmente disperato, voglia di piangere, ma le dirò per sempre di aver investito tutti i nostri beni di famiglia in Italia. Non ho più nulla. Grazie Equitalia, grazie Serit, grazie Italia. Ho tanta paura, 40 anni ho perso tutto, non solo tutti i beni, ma la mia vita. Ho rinunciato a tutto per portare avanti la mia azienda, vacanze, malattia, festività, solo lavoro da mattina a sera senza tregua, sabati e domeniche, vita sociale, famiglia, tutto sacrificato, ma ad ogni buona notizia arriva sempre una tegola insormontabile, ad ogni vendita segue sempre una mastodontica tassa da pagare, contributi, una nuova cartella esattoriale, ora il pignoramento. Se solo avessi venduto 3 anni fa, ora sarei un uomo felice con mia figlia e mia moglie a giocare lontano dall'Italia. Ora non so come comprare il pane. Mi avete ucciso, conclude. Ci racconta su Facebook, appunto. La nostra pagina Facebook è 9 in punto Radio 24, quindi la trovate abbastanza facilmente. Alberto Rioli, abbiamo sentito una storia in voce e una storia che ci è stata raccontata via social network, rappresentative oggettivamente della situazione che stanno vivendo molte aziende italiane, soprattutto le piccole. Sì, non c'è dubbio, quindi è ancora più calzante quel tempo scaduto da cui siamo partiti, evidentemente, perché la situazione di disperazione è diffusa, la situazione di scoramento, di scoraggiamento, purtroppo un mood, diciamo così, di chi perde la speranza, ed è questa la cosa peggiore per chi fa imprese, per chi poi deve essere trainante rispetto all'idea complessiva dello sviluppo di un paese, quindi è questo da cui deve partire soprattutto anche l'azione della politica, che è la grande assente di questi giorni, naturalmente, come sappiamo, perché parla d'altro, perché è imprigionata da questa tempesta perfetta dei rituali in cui si stanno consumando le diverse posizioni di un Parlamento congelato, ma nel frattempo però appunto le imprese non hanno liquidità e spesso la liquidità non viene data dallo Stato, che è il principale committente, diciamo così, di molte delle aziende. Più di un quarto delle imprese italiane lavora con amministrazioni pubbliche che non pagano, come è noto. Adesso stiamo raccontando quotidianamente, anche oggi, il decreto che dovrebbe sbloccare i primi 10 miliardi, e però con grande fatica, grande faraginosità burocratica, che non renderà quel colpo che invece ci dovrebbe essere sul sistema economico nel momento in cui effettivamente finalmente lo Stato decide di pagare i suoi debiti irrorando con liquidità immediata e facilmente accessibile per i suoi creditori. E purtroppo non è così, perché la procedura è molto complessa e quindi rischia di vanificare una parte dell'effetto positivo che comunque questo decreto dovrebbe avere. Però tornando ai casi di disperazione che abbiamo raccontato, sono casi molto frequenti, anche noi ne riceviamo moltissime segnalazioni per email, ci arrivano al giornale, È un paese bloccato perché è un paese che è una specie di vittima di un cattivo incantesimo che ha, di una glaciazione della domanda interna sostanzialmente. È un paese che ha frenato i consumi, un paese spaventato, impaurito, che ha bloccato qualunque comportamento virtuoso che abbia a che fare con un'idea di futuro. Purtroppo questa situazione di incertezza e di difficoltà ci ha mangiato il futuro, e mangiarci il futuro vuol dire togliere la speranza, vuol dire togliere la possibilità di progettare per chiunque di noi, e quindi ci costringe, come dire, ad arretrare nelle nostre posizioni, nella nostra idea positiva di quello che dovremmo essere noi, la nostra famiglia, i nostri figli, il nostro paese di qui a qualche anno, e questo è un danno gravissimo. A chi ci chiede su Twitter, Cristiano, qualcuno mi spiega cosa c'entra l'ingovernabilità con il credit crunch bancario. In sé non c'entra niente, però Alberto Rioli ha raccontato adesso perfettamente che cosa vuol dire avere una situazione come quella che vediamo, perché sottovalutare l'impatto psicologico dello smarrimento che genera una situazione politica così bloccata e una crisi che appunto dall'economia si sposta anche alla politica, la comprende. Il punto è proprio questo, cioè c'è un elemento importante che è quello psicologico. Si parlava di chi lavora con il settore pubblico, ne parlava Alberto Rioli. Giacomo Gellini, voi siete tra questi, la sua impresa è tra queste. Buongiorno, assolutamente sì. Io direi innanzitutto che il dottor Rioli ha fatto una sintesi perfetta di quella che è la situazione oggi. Noi come azienda lavoriamo, diciamo, siamo nell'ambito delle costruzioni stradali, pavimentazioni stradali a 360 gradi, con una clientela al 90% che è pubblico. Pubblico intendo sia enti ed amministrazioni locali che anche amministrazioni centrali. E mi ritrovo in tutto quello che è stato detto. E per rispondere al messaggio su Twitter che chiedeva cosa c'entra l'ingovernabilità con il credit crunch, direi che la connessione invece è assolutamente lineare ed anche snella. Nel nostro caso, nel nostro settore, mancanza di governabilità vuol dire mancanza completa, totale di lavori pubblici, mancanza di pagamenti. Questo vuol dire inevitabilmente per le aziende un abbassamento, un deterioramento del rating, e da qui credit crunch, quindi è abbastanza lineare il rapporto, la conseguenza, perdoni. Noi come azienda, dicevo prima, lavoriamo essenzialmente con il pubblico, abbiamo una dimensione di, diciamo, sui 3-10-12 milioni annui con circa una ventina di persone. Quello che è inevitabilmente da notare è, oltre, come accennavo prima, a questa totale mancanza di lavori pubblici oggi, che si va a sommare alla arretratezza dei pagamenti che ormai mi sembra sia sui giornali quotidianamente, quello che più è grave per le aziende del nostro settore, ma anche direi per tutte, sottolineo, come diceva lei prima, il nostro settore che ad oggi, dunque da inizio anno, il Sole 24 Ore di ieri diceva 2.856 aziende che hanno chiuso, quello che io denuncio è questa totale, io chiamerei, noncuranza da parte della politica della situazione attuale reale. Questa è la cosa assolutamente più grave, che è sintetizzata benissimo anche dal signor dall'artigiano di Bergamo, da Angelo. È quello il grido degli imprenditori, è quello. È inaccettabile che oggi una classe politica abbia un atteggiamento del genere. Io sono sicuro che ci sia uno scollegamento, non c'è collegamento tra la politica e la realtà, non c'è interesse. Perché, mi permetta, poi chiudo. Sì. Se veramente questa classe politica fosse responsabile, e mi sembra che ogni giorno si chiedano a vicenda un atto di responsabilità, io non ci credo, perché responsabilità oggi secondo me vuol dire che ciascuno dovrebbe fare un passettino indietro per permettere a questo paese di fare un passo in avanti, e invece mi sembra che nessuno lo voglia fare. Sentiamo, chiudiamo questo giro sentendo Paolo Pirani. Perché abbiamo chiesto un intervento ad un sindacalista? Perché oggi, riprendiamo sempre il Sole 24 Ore, non perché è il giornale di casa per così dire, ma semplicemente perché su questo tema dice le cose centrali. Abbiamo un Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, che dice: è finito il tempo degli scontri. Segnalo a, giusto per ricordare, anche un altro quotidiano, che ieri l'Unità ospitava in prima pagina un intervento di Guglielmo Epifani, ex segretario generale della CGIL, che scriveva, il titolo era dell'articolo, Squinzi ha ragione, inaspettato. Quindi è un momento nel quale evidentemente le esigenze degli imprenditori e le esigenze dei lavoratori si stanno saldando di fronte ad una crisi che, come si diceva, è economica, è profondissima ed è anche una crisi politica. Pirani, è arrivato il momento, no? Non c'è dubbio, noi stiamo vivendo una crisi profondissima, si perdono ormai più di 2000 posti di lavoro al giorno, non ce n'è più per nessuno ed è vera le cose che venivano dette prima, che la caratteristica di questa crisi è che si è persa la speranza, quella cioè di poter uscire dal tunnel, e quindi occorre fare uno sforzo congiunto, imprese e lavoratori, quelli che cioè sono colpiti innanzitutto da questa crisi, per cercare di cambiare uno stato di cose. Io credo che noi dovremmo immaginare delle iniziative comuni molto forti tra imprese, soprattutto le piccole imprese, gli artigiani, i commercianti e le organizzazioni dei lavoratori, per far sentire con forza la voce del lavoro in questa crisi, perché l'Italia uscirà dalla crisi solo se ridarà valore al lavoro. Questo vuol dire affrontare dei nodi che sono anche qui stati detti. Uno, questo elemento del... Sì, è importante Pirani, però ci tengo a sottolineare una cosa, perché a volte c'è un modo di intendere la parola lavoro in questo paese, per cui si tende ad intendere solamente, scusate la cacofonia, il lavoro dipendente. In realtà, appunto, il lavoro è lavoro anche quello degli imprenditori, degli artigiani, no? Prego. Siamo la seconda manifattura d'Europa. Questo vuol dire che va tutelata questa posizione, che è fatta di imprenditori, di artigiani e di lavoratori. Quando noi abbiamo tre ricchezze in Italia, la posizione geografica, la cultura e la capacità di fare, il capitale umano, che sono imprese e lavoratori, se noi sprechiamo questa ricchezza e non ci mettiamo assieme per affrontare i nodi della crisi, noi saremo travolti, e già lo stiamo vedendo proprio in questi giorni. Non a caso sono molti gli episodi in Italia di iniziative congiunte tra il datore di lavoro, soprattutto di una piccola impresa o di un'impresa artigiana, e i lavoratori, che assieme manifestano per impedire che i posti di lavoro e che le aziende chiudano. 9 in punto. Iniziamo a sentire alcuni di voi, ci avete chiamato all'800 24 00 24. Vi ricordo ancora una volta, abbiamo appena aperto la pagina Facebook, www.facebook.com/9inpuntoradio24, scritto tutto a lettere tranne il 24, naturalmente. Ci trovate là in maniera che si possa proseguire, così come su Twitter, insomma, trovate me, Simone Spetia, in maniera che si possa proseguire la discussione anche sulla trasmissione, sui temi della trasmissione, anche nel corso della giornata e senza limiti di tempo. Come dire, la trasmissione non finisce qua. Andrea da Prato, buongiorno. Buongiorno. Prego. Ho telefonato perché io sono un imprenditore, sono in trincea, ho 65 anni e non intravedo nemmeno il momento della fine del mio impegno, per cui sono sensibile a quello che si dice. Ho telefonato per contestare, bonariamente si intende, l'impostazione, l'incipit della trasmissione. Il fatto che si siano persi 47 giorni per risolvere la crisi mi sembra poco in confronto al pericolo che vedo. Cioè, il pericolo è che si insedi un governo che non governa, che ci stia per un anno e mezzo, per poi andare naturalmente a elezioni anticipate, e che non faccia niente. Allora, io credo che questi 47 giorni si siano spesi male, non perché non si è fatto il governo, ma perché in questi 47 giorni si sarebbe dovuto dire quali provvedimenti sono quelli urgenti, ma non solo i titoli, ma anche come farli, perché ormai abbiamo un'esperienza storica. È passato un anno senza la legge sulla corruzione, senza la riforma della politica e quant'altro. E purtroppo i protagonisti non sono cambiati. Sì, allora, Andrea, che garanzia io? Andrea, capisco e accetto la critica, perché insomma fa piacere anche averle, perché ci insegnano a riflettere su noi stessi. Detto ciò, con che maggioranza delinei questi provvedimenti? Insomma, il punto è anche quello, cioè è una crisi politica oggettiva, ci sono tre forze pari l'una all'altra in Parlamento, con una legge elettorale che ha creato un meccanismo distorsivo incredibile, per cui un partito di maggioranza relativissima ha una maggioranza incredibile alla Camera e non riesce ad avere la maggioranza al Senato. Detto ciò, per i provvedimenti e per votare i provvedimenti ci vuole una maggioranza, o no? Certo, ma mi perdoni, che tipo di provvedimenti possono sortire fuori da forze che si pretende di mettere insieme e che di proposte non hanno pressoché nulla? Uno dice vuole restituire l'IMU, l'altro dice qui c'è bisogno di soldi, non solo non si restituisce la vecchia, ma si mantiene per il futuro. Uno dice che la legge sulla... Guardi Andrea, questo è il problema. Sì, capisco il suo ragionamento, in realtà ci sono molti più punti di contatto di quanti non si creda tra i programmi dei partiti. Qua si parla proprio che altro anche di una scarsa percezione da parte della politica e del mondo politico in questo momento del livello di sofferenza delle imprese. Voglio sentire anche Marco che ci chiama da Roma e poi sentiamo Alberto Orioli che poi ci deve salutare, perché è naturalmente anche un lavoro vero oltre a quello di stare qua in studio con noi, che è quello di vice direttore del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno a me. Breve, mi raccomando. E a tutti. Senta, io stavo dicendo che praticamente sono diversi anni che faccio questo, cioè faccio l'agente di commercio, e quindi sto sul territorio Roma-Lazio e praticamente vedo che ogni anno mi diminuiscono sempre i clienti e sono sostituiti da questi nuovi clienti cinesi che praticamente senza alcun cioè vedo che sperperano denaro, nel senso che prendono negozi molto grandi, li imbottiscono di roba eccetera, ma se non riescono a sopravvivere i nostri negozianti, perché devono chiudere per fame, per le tasse eccetera, come fanno questa gente a sopravvivere e praticamente aprire in continuazione quando noi stiamo chiudendo tutti i negozi? Marco, non lo so, hanno liquidità molto semplicemente, Alberto, no? Beh, sì, la Cina è la grande potenza mondiale con la quale tutto il mondo occidentale deve fare i conti. Cioè, è uscito un dato ieri, hanno aumentato le riserve e le riserve della Cina sono pari all'intero PIL della Germania. Ecco, questo ci fa capire un po', diciamo così, chi hanno alle spalle questo tipo di concorrenti, più che temibili naturalmente, anche perché poi sono estremamente parsimoniosi, hanno costi del lavoro praticamente da dumping, e quindi è un fenomeno con cui bisogna fare i conti. Però la matrice del tema è quella che dicevo prima, la glaciazione della domanda interna, l'azzeramento totale dei consumi e della fiducia, che è il grande problema del paese, di cui la politica dovrebbe farsi carico, e per questo serve un governo, qualunque esso sia, diciamo la verità, che possa mettere in campo quei tre o quattro provvedimenti urgentissimi, al di là di quelli della retorica dei costi della politica o della pulizia delle istituzioni, che d'accordissimo sono fondamentali, ma non servono a migliorare la situazione della fiducia e della domanda interna. Diceva l'altro giorno il presidente degli industriali dell'Emilia Romagna, no? Dice stiamo qua a calcolare quanto costa un caffè alla buvette e nel frattempo... Esattamente, infatti è proprio quello il punto. Qui ci vuole probabilmente un ridisegno del patto fiscale tra i cittadini, quello è la prima cosa, perché non possiamo permettere di essere ottavi nel mondo dei paesi OCSE come costo del lavoro e al di sotto dei 22-23 esimi come salario netto, per dire. Questo è una divaricazione mostruosa. Siamo il paese che paga per il quale il costo della manodopera è più alto, ma la retribuzione che la manodopera ha effettivamente è la più bassa. Questo è il grande paradosso italiano, in questo bisogna incidere, ma qui dico, torno a dire, c'è il tema del patto fiscale, nel senso che naturalmente bisogna anche prendere atto che la quantità di evasione fiscale nel nostro paese è mostruosa, e poi bisogna prendere anche atto che bisogna spostare il peso del carico fiscale sulla rendita e togliere anche quell'allure sociale alla rendita, perché bisogna cambiare, diciamo, l'idea delle priorità anche in termini di immagine. È molto ma molto ma molto più importante, diciamo così, l'appartenere alla manifattura, al fare qualche cosa, a far parte del mondo della produzione, piuttosto che non a quello della turbofinanza. Ma ho la sensazione che per troppi anni questi due mondi sono stati, diciamo così, invertiti nella scala delle priorità anche della rispettabilità sociale, diciamo così. È ora di cominciare a cambiare la scala di valori, ecco. Ma secondo te, adesso, al di là di questo che è il ragionamento più alto, e così chiudo e poi ti saluto, il ragionamento che ci faceva Andrea da Prato, dice sì, ma insomma che vuol dire fare in fretta se poi questi hanno tutti idee diverse, insomma meglio far bene, insomma. No, non c'è dubbio, purtroppo parlavo di tempesta perfetta perché è difficile diciamo porre mano a un miglioramento della condizione politica stante le cose che conosciamo. Cioè tre forze in campo che stanno agendo per veti contrapposti, che quindi creano una totale immobilità dell'azione politica. E in questo è un, diciamo così, io credo che al di là delle responsabilità storiche dei due grandi blocchi PD e PDL, anche il Movimento 5 Stelle si debba francamente interrogare sul grado di responsabilità nell'esercizio del potere che i cittadini gli hanno dato, perché sedersi in Parlamento significa esercitare il più alto potere di rappresentanza della cittadinanza e di un popolo. Io credo la grande domanda sia: ma l'inciucio, come lo chiamano loro, tra PD e PDL è un fatto cercato da PD e PDL o è un fatto indotto dal tatticismo del Movimento 5 Stelle? Se io fossi un rappresentante dei grillini, diciamo così, e dovessi rispondere a questa domanda, naturalmente risponderei che in gran parte è indotto dal mio tatticismo, al mio non scendere in campo. Non sarei francamente contento, anche perché questo è chiaro che serve al Movimento 5 Stelle per gridare all'inciucio e per tentare di fare filotto al prossimo appuntamento elettorale, ma è una tattica talmente ingenua ed elementare che io credo gli stessi elettori l'abbiano capita. Grazie, grazie Alberto Orioli, io ti saluto e torno adesso dalla persona che abbiamo sentito all'inizio, Laura Alberti. Io a questo punto voglio sapere che cosa fate, cioè che cosa potete fare, che cosa riuscite a fare adesso? Guardi, noi siamo disperati e non so darle una risposta perché siamo in mano delle banche e dei nostri clienti che hanno difficoltà e sono disperati quanto noi, non so proprio risponderle, stiamo lottando, ma come ho detto all'inizio, io tutto quello che avevo personalmente l'ho messo in azienda, sto proteggendo in questo momento gli stipendi dei miei dipendenti, ma non il mio e quindi non i miei figli. Cosa le devo dire, dottor Spezia? Non so dirle, siamo in balia veramente delle eventuali, se mai ci saranno, scelte politiche, mi auguro, positive e della nostra quotidianità. Il tempo è scaduto? Bene, per molte aziende secondo me è proprio finito. Noi ci fermiamo un attimo adesso, c'è la viabilità, consentitemi la solita nota. Non sono dottore, lo dico a Laura Alberti e lo ricordo sempre in onda per evitare confusione. 9 in punto. Sentiamo qualche altro ascoltatore. Francesco ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno. Prego. Niente, io volevo dare una testimonianza, ma soprattutto volevo rispondere a quell'ascoltatore che aveva scritto su Facebook. Io sono un imprenditore, l'anno scorso ho chiuso la mia azienda, 2 anni fa avevo 80 dipendenti, oggi mi ritrovo come dice quell'ascoltatore. Il consiglio che volevo dare era questo, a me un dipendente 2 anni fa mi ha detto una cosa, impara a respirare, c'è sempre un giorno dopo e quindi non è detto che le cose finiscano. Mi dispiace che alla fine i suoi ospiti, ma involontariamente lo capisco, siano tutti prodighi a dare buoni consigli o a sapere qual è il bandolo della matassa, ma non sanno nulla, perché dare consigli e non aver vissuto queste situazioni non serve a niente. Le banche stanno rovinando le imprese, ma lo dico, tutti si riempiono la bocca di questo discorso delle banche, però la realtà è che non è cambiato nulla. Io non mi nascondo a dire, ho votato 5 Stelle e avevo paura di essermi pentito. In realtà forse serve proprio quello, uno sconvolgimento totale e una ripartenza, perché le cose, da quello che sto vedendo, non sono cambiate. Vittorio ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno, dottor Spezia, io volevo andare un po' controcorrente, no? Perché è un po' che la sento e l'ascolto anche stamattina. Controcorrente in che senso? Sembrerebbe che adesso gli imprenditori, la colpa è tutta la politica, tutte le banche, ma ci rendiamo conto che in Italia abbiamo una classe imprenditoriale che non è migliore dei politici? Perché c'è improvvisazione, guardi, è 40 anni che faccio questo mestiere, vivo in questo mondo e ne ho incontrato a migliaia, improvvisatori, senza, vogliono mettere su imprese senza una lira, voglio dire, bisogna anche finanziare le aziende, se tu non hai dei soldi non puoi partire con un'attività e poi non ci si mette insieme, non si fa, non dico cooperativismo, ma associare, diventare più grossi per andare poi all'estero a fare delle cose. Noi italiani siamo fatti così, anche gli imprenditori sono uguali ai politici, abbiamo 50-30 partiti in Italia, questo è il problema degli italiani, non sappiamo neanche votare, adesso abbiamo votato 5 Stelle, abbiamo votato uno che si è fatto per 20 anni i suoi interessi, voglio dire, è mai possibile che la gente abbia ucciso Monti perché sembra che Monti abbia distrutto l'Italia in un anno? Ma veramente, voglio dire, smettiamo di fare controcorrente. Io delle volte sento delle analisi, quando sento quella signora che ha 8 dipendenti, che mi dispiace perché è in difficoltà, però come fa a essere finita in mezzo alle banche? È vero che prima ne aveva 25, adesso ne ha 8, ma perché si fa strangolare dalle banche? Bisogna mettersi anche dei soldi per fare impresa, se no lasciamo stare. Mi dà 30 secondi ancora, Spezia, io le faccio un esempio di 40 anni fa, no? Io vendevo macchinari per l'edilizia, allora in Italia c'erano 65 costruttori di gruppo per edilizia, e quando c'è stato il boom del Medio Oriente l'edilizia andava con fievele e quant'altro, in Francia ce n'erano 5 o 6, bene, in Francia quelli 5 o 6 ci sono ancora e hanno comprate le 4 aziende italiane che erano ancora in salute, e le altre hanno chiuso, la grande distribuzione italiana, io adesso sto in questo settore, la grande distribuzione è successa la stessa cosa, sono venuti qui i francesi, i tedeschi ci hanno comprato, sì. Perché noi italiani non sappiamo fare sistema, ognuno ci fa il suo orticello e ci si attrisce. Nella grande distribuzione letteralmente divorati, su questo ha ragione Vittorio. Voglio sentire prima Gellini, poi Laura Alberti e poi chiudiamo con Paolo Pirani, quindi prego di essere brevi. Gellini, una risposta a Vittorio sulle colpe della classe imprenditoriale italiana. Ma io direi che in parte ha assolutamente ragione, voglio dire, la verità è sempre nel mezzo, quindi sono d'accordo anche con lui, così come sono d'accordo anche con chi parlava prima, perché quello che dice Vittorio adesso probabilmente non è applicabile proprio per tutti i settori. Faccio l'esempio del mio settore, in quanto sono alla sua trasmissione più come imprenditore, voglio dire, quello che è un paradosso al momento è che a chi ha impianti di produzione come i nostri, che lavora con il pubblico, perché non ci sarebbe altro modo di potersi permettere impianti di produzione, al momento cosa dobbiamo fare? Soltanto aspettare che qualcosa cambi, e questo per un imprenditore è la cosa più grave possibile, perché non sta a noi, quello che sta a noi è nel passato aver fatto quello che Vittorio dice, quindi o aver investito in innovazione, aver diversificato, essere andati all'estero, però capisce, altra cosa secondo me molto importante, in un settore come il nostro di costruzioni stradali, l'andare all'estero è cruciale, sono contento di aver iniziato un progetto alcuni anni fa, però capisce lo scarso valore di ritorno che si ha per il nostro paese, siamo sinceri, perché non è un'esportazione, quindi anche sì. Qui c'è da stare attenti, quindi ecco, la verità è sempre nel mezzo, io sono d'accordo, dobbiamo sempre anche guardarci in casa, dobbiamo capire se noi abbiamo delle colpe, è vero, però in questo momento la mancanza della politica sicuramente penalizza moltissimo. Laura Alberti, in 30 secondi, visto che Vittorio l'ha chiamata in causa, in realtà lei ci ha messo, non è che non esatto. Ha investito, i suoi beni ce l'ha messi nell'azienda. Infatti, mi sembra che l'ascoltatore non abbia seguito bene le mie parole, perché tutto quello che avevo messo, quindi io sono adesso nelle mani delle banche, ma io ho investito con tutte le mie proprietà e la mia liquidità che avevo, perché credo nella mia azienda come tutti gli imprenditori italiani, se no, scusate, mi faremmo dei fessi. Purtroppo questa crisi ci ha coinvolto e c'è anche chi effettivamente ci gioca un po' e magari non paga sapendo della crisi e mettendo in crisi altre aziende. Quindi io come imprenditore ho fatto il mio dovere e come amministratore da più di un anno che non percepisco un compenso. Questo è quanto. A chiudere, Paolo Pirani, segretario confederale della UIL, una riflessione a chiusura dopo aver sentito tutti questi imprenditori, prego. Ma la riflessione che noi dobbiamo metterci assieme, non è più tempo del conflitto, è tempo di collaborare tutti, perché l'Italia uscirà dalla crisi solo se l'idea di un'Italia che produce, di un'Italia basata sul manifatturiero, torna ad avere valore. Bisogna fare alcune scelte, abbattere questo cuneo fiscale che è un vero cappio sull'economia, bisogna reintrodurre liquidità nel sistema. Per fare questo però abbiamo visto come la politica non riesca a trovare il bandolo della matassa. Forse spetta ancora una volta, come nel 92-93, alle parti sociali, cioè agli imprenditori e ai lavoratori, indicare una strada per il nostro paese. Grazie anche a Paolo Pirani, grazie a Laura Alberti, a Giacomo Gellini, chiedo scusa a Germano da Pescara che non siamo riusciti a far intervenire, quando torniamo sui temi delle imprese o anche sugli altri temi se vuole, non c'è problema, con molto piacere l'accogliamo. Vi ricordo la nostra pagina Facebook appena aperta, è www.facebook.com/9in.radio24, oppure su Twitter trovate me, Simone Spezia, per far proseguire la trasmissione anche oltre il suo orario naturale. Un ringraziamento a Carmelo Lauricella in regia, Franco Piantanida in assistenza, Alessandro Marco Tulli in redazione, un grazie a tutti voi per l'ascolto. Per chi vuole ci sentiamo domani con Vota Antonio per parlare di interazioni tra rete e politica dopo il GR delle 9, oppure lunedì con 9 in punto. Ricordati! Mancano 80 giorni all'aumento dell'IVA. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Radio 24. La passione. Si sente.